9 in punto, la versione di Oscar. Beh, questo 9 in punto fa un po' ridere, eh? Ammettiamolo, visto che sono il 9-11, tanto per andarci larghi. Comunque chiedo scusa a voi se ogni mattina vi chiediamo un 9 in punto che non c'è mai da molto tempo. Chiedo scusa anche per le repliche, che sono così brevi che spesso non fanno capire poi questo programma. Vabbè, punti interrogativi. Detto questo, a cosa dedichiamo questo giovedì 11 novembre? Lo dedichiamo tentando di essere chiari, cioè di evitare troppi tecnicismi, non è facile obiettivamente, di riflettere su questo G20 che si apre a Seul in Corea, sullo scenario di una grande ripresa delle tensioni internazionali. Sembra per molti versi, a leggere le cronache dei quotidiani economici, del Sole 24 Ore, del Financial Times, del Wall Street Journal, in questi ultimi mesi, che davvero tutta quell'enfasi, quella retorica per molti versi sulla necessità di un coordinamento globale, non solo per uscire dalla crisi del commercio mondiale, che nei primi due trimestri dopo il fallimento di Lehman Brothers toccò livelli mai visti prima, anche perché per la prima volta si realizzava in un meccanismo di crescita in cui dal 2001 avevamo davvero associato tutto il mondo, quindi miliardi di persone. Eppure dopo tanti mesi passati a parlare del coordinamento e della regia di un mondo la cui crescita è assicurata dalle potenze emergenti, dalla Cina, dall'India, dal Brasile, e anche significativi cambi di governance, il G20 appunto rispecchia questa governance molto più ampia. Oppure pensiamo anche a ciò che si è deciso nella riunione preparatoria due settimane fa di questo G20, quello del ministro dei ministri, perdonatemi, delle finanze, che si è svolto due settimane fa sempre in Corea, e nella cui occasione si è finalmente deciso di cambiare il meccanismo di governance del Fondo Monetario Internazionale, limitando i poteri che oramai erano eccessivi e ingiustificati dell'Europa, estendendo invece il ruolo appunto della Cina e dei paesi emergenti, sia pur consentendo agli Stati Uniti di rimanere con il potere di veto all'interno del Fondo Monetario. Eppure tutto questo sembra per larga misura consegnato un po' alle cronache, perché nella realtà siamo alla guerra, un po' esagerando, ma la guerra più importante che sia in corso oggi sullo scenario internazionale, che non è appunto quella più dell'Afghanistan o dell'Iraq, malgrado le tensioni siano quelle che ci sono ben note, ma è la guerra delle valute, è la guerra del dollaro, in altre parole, è la guerra dello yuan. E dico brevemente un po' due pillole mie. Io credo che l'America continui a sbagliare, nel senso che avete trovato il viaggio del presidente Obama in Asia, in cui i toni sono cambiati rispetto a quelli usati dal segretario del Tesoro Geithner due settimane fa nel meeting preparatorio del G20. Gli Stati Uniti furono costretti a mettere la sordina alla durezza dell'attacco duplice che avevano mosso. Qual è il duplice attacco mosso agli Stati Uniti? Innanzitutto quello alla Cina, accusata di tenere troppo basso il corso dello yuan e quindi di continuare a usare le tante munizioni finanziarie, le tante risorse, quasi 3 mila miliardi quasi di riserve in dollari, per continuare ad acquistare dollari e deprimendone quindi il prezzo, impedendo quindi allo yuan di rivalutare. Questa accusa che viene fatta, la prima accusa che viene fatta alla Cina, è quella di rendere artificioso il cambio delle monete, ed è la Cina è la prima potenza manifatturiera mondiale, significa vantaggio competitivo inglobato nelle sue merci sui mercati, significa continuare a esportare di più, e in effetti negli ultimi mesi la diminuzione dell'avanzo commerciale cinese, che sembrava contrassegnare questo grande cambio di segno, no, della politica cinese, che avrebbe consumato di più ed esportato di meno, è invece ha continuato a riprendere, quindi l'export cinese continua a essere fortemente il traino del modello di crescita cinese. E questa è la prima accusa. La seconda accusa è rivolta non solo alla Cina, ma è rivolta agli altri grandi paesi che sono in posizione di grande attivo della bilancia commerciale e della bilancia di pagamenti di parte corrente, quindi anche alla Germania, che in realtà col suo 6% di PIL di parte corrente insomma è tra i paesi, insieme alla Cina, insieme al Giappone, che appunto esportano di più, stanno facendo la parte del leone nel meccanismo del commercio mondiale. E a questi paesi gli Stati Uniti ha minacciato un tetto esplicito, tanto in negativo ma quanto in positivo per chi va troppo bene, dicendo: voi dovete esportare di meno, dovete consumare di più. Se voi consumerete di più, quindi accrescete le importazioni da paesi come gli Stati Uniti, voi farete crescere in maniera più equilibrata il mondo. La reazione però alla ripresa delle polemiche da parte di Obama dopo il midterm, che ha ripreso a dire alla Cina, alla Germania, noi abbiamo bisogno a Seoul di tutto questo, è stata molto dura. Per la prima volta in Europa, d'ambiente della BCE, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente dell'Eurogruppo Juncker, hanno detto gli Stati Uniti stanno sbagliando, perché questa politica monetaria della Fed, che ha ripreso a comprare per centinaia di miliardi di dollari titoli del debito pubblico americano per tenere bassi i tassi a lungo termine americani e per monetizzare il debito americano, fa il paio con la politica di eccessivo debito pubblico americano, non funziona sul mercato americano che si pianta, l'America non cresce più e quindi per questo poi si perdono anche le elezioni del midterm, e soprattutto è un danno perché artificiosamente altera il corso del dollaro, proiettandone il deprezzamento sul resto del mondo, almeno altrettanto gravemente di quanto non faccia la Cina, che lo fa perdere a difendersi ma su una posizione di forza rispetto a quella americana, che è una posizione di debolezza, di crescita che si pianta e di eccesso di debito. Vedere fonti europee e non solo cinesi rispondere in questa maniera, con questa durezza inusitata a Obama ringalluzzito dopo il midterm e quindi più muscoloso, ha alimentato tensioni molto forti. In tutto questo aggiungiamoci di nuovo l'esplodere degli spread nel teatro europeo, con l'Irlanda che quest'anno, lo sapete, ha un deficit superiore al 30% del PIL per via della never ending story, di questa storia senza fine dei salvataggi bancari con gruppi come l'Anglo-Irish che apprendiamo ogni mese o quasi, che hanno bisogno di altri miliardi per essere sostenuti. L'Irlanda è schizzata al massimo storico del suo spread nei confronti del Bund, la stessa cosa è avvenuta per il Portogallo, si riprende a parlare di una crisi strisciante l'eurodebito. Axel Weber, il presidente della Bundesbank, qualche settimana fa ha iniziato a parlare esplicitamente, cosa di una certa gravità, della necessità che i debiti pubblici di paesi europei meno forti vadano incontro a ristrutturazioni quantomeno del programma degli interessi da pagare, e il mercato l'ha preso, come la parte del presidente della Bundesbank, come un mezzo segnale di default strisciante o quantomeno di programmazione di ristrutturazione del debito, che è sempre una maniera per dire non siamo in grado di pagarlo. Detto tutto questo, l'Europa, se l'America sbaglia molto, secondo me, è un mio giudizio, l'Europa è la parte più debole tra i paesi emergenti, la Cina forte del suo export e delle sue riserve, e gli Stati Uniti, che dite quello che volete, ma da quando hanno iniziato a riprendere, a rispondere in maniera muscolare all'Europa e alla Cina, come avete visto, il dollaro, che di solito tende a deprezzarsi per effetto delle politiche monetarie e delle politiche di bilancio americane, e quindi con l'effetto di deprimere il valore reale dell'eccesso dei debiti americani, in questi giorni ha invece preso ad avere un corso diverso, perché come sempre quando poi l'America mostra i muscoli e c'è grande casino, grande paura sui mercati, come avviene per effetto della cosa europea e per il timore che da tutto questo ci sia una minor crescita mondiale, poi il dollaro resta poi la valuta di riserva. Però per capire anche che cosa cambia le nostre tasche per effetto di questo scenario così conflittuale, abbiamo due esponenti di grande rilievo capaci di parlare con chiarezza di questi temi, e io cedo loro la parola. Abbiamo innanzitutto il professor Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica. Buongiorno professor Vaciago. Buongiorno a tutti. E Tobias Piller, che è il mio straordinario, la mia voce tedesca di riferimento da molti anni, il corrispondente della Frankfurter Allgemeine qui in Italia. Buongiorno e grazie a te Tobias. Buongiorno. Allora, professor Vaciago, dovesse scommettere lei rispetto, sono giornalista, un po' esagero con i toni, però insomma la ripresa di questo conflitto aventi le valute da una parte, tra chi altera di più i corsi dollaro yuan, e dall'altra i paesi accusati di essere troppo virtuosi perché esportano troppo, è espressione davvero di una debolezza americana? E soprattutto, che cosa ne può venire all'Europa e alle nostre tasche se non si riprende un coordinamento vero? Ma diciamo che l'Europa al suo interno ha gli stessi problemi che il mondo ha al suo interno. Cioè la Germania fa la Cina, insomma. Di fatto sì, con tutte le differenze del caso. Problema, 9 agosto 2007 inizia la crisi e siamo ancora in pieno in questa crisi. E per crisi intendo l'incapacità che hanno i maggiori paesi, anche l'Italia, ma non è un player globale, diciamo l'incapacità che hanno di aggiustare gli errori del passato da un lato e di disegnare il mondo migliore che vorremmo dall'altro. Continuiamo a mescolare le due cose. L'Irlanda è fantastica. C'è un casino che abbiamo scoperto 2 anni fa e ogni giorno togliamo un'altra foglia dal ramo perché non abbiamo ancora finito di aggiustare il vecchio. Dopodiché ci si domanda, ma che fine fa l'Irlanda? E beh, finché non sappiamo la verità. Nel frattempo continuiamo a confondere conto economico e stato patrimoniale. I fallimenti ti rendono più povero, ma il debito che fai nell'anno per aggiustare non lo devi contare nei flussi, lo devi contare negli stock. Quando sento dire che il deficit dell'Irlanda è il 32% del PIL, dico l'hanno messo dalla parte sbagliata del conto, è nel conto patrimoniale. L'Irlanda credeva di essere ricca e non la è, ma non puoi dire che quest'anno il deficit pubblico è il 32 o quello americano è il 12 eccetera. Se ci metti dentro i costi dei fallimenti, per definizione stai facendo una montagna di nuovi debiti che sono in realtà solo la valutazione a patrimoniale dei debiti che hai scoperto. Detto ciò, e lì veramente l'errore di Obama è di andare in Corea non più con i soldati come negli anni 50, ma col piatto in mano a chiedere un'elemosina. E per la prima potenza, tuttora prima potenza, declinante ovviamente, ma tuttora prima potenza del mondo, andare col cappello in mano a chiedere l'elemosina ai cinesi è umiliante. Io trovo i toni di Obama sbagliati, perché è quello che chiede l'elemosina fuori dalla chiesa e protesta se non gliela dai, il che è veramente drammatico, succede anche in Italia, ma tutte le volte mi fa solo pena. Allora, l'America è ancora la prima potenza globale, la Cina senza l'America non esiste e Obama va là a dire limitate il vostro surplus. Ma è ridicolo, il debitore non può andare dal creditore e dirgli non esagerare, ha bisogno del suo risparmio. Allora, qui veramente ho lo stesso discorso, mutatis mutandis, succede in Europa. Il virtuoso tedesco l'ha capito che ha finanziato lui, perché sono le banche tedesche che hanno dato soldi all'Irlanda e alla Grecia, l'ha capito che ha finanziato lui i paesi trasgressori. E adesso deve a tirare le orecchie ai suoi banchieri. Il salvataggio della Grecia è stata una roba vergognosa. Hanno salvato Deutsche Bank, non la Grecia. La Grecia l'hanno condannata a servire i banchieri tedeschi per 10 anni. Allora, anche lì, che razza di unione monetaria è quella in cui il creditore col bastone va in giro a picchiare i debitori? Ma ve l'immaginate una banca trattare male i suoi clienti? Mettiamoci. Cioè, mettiamo una pietra sul passato e ragioniamo sul futuro, non continuando come in questi giorni, come ieri, come oggi, a mescolare le due cose. Questo è un errore di metodo. Allora, abbiamo scoperto che il patto di stabilità era una barzelletta, che i banchieri tedeschi finanziavano i paesi trasgressivi del patto che i tedeschi avevano tanto voluto. Bene, adesso basta e ragioniamo sul futuro. Io fra l'altro vorrei capire, il progetto Monti va avanti, vorrei capire Europa 2020 è una cosa seria o dobbiamo passare il tempo 10 anni a litigare su Grecia, Spagna e Irlanda? Ecco, questa che sarebbe la conclusione di un programma serio e condiviso di come risolvere i problemi europei, cioè l'agenda Monti significa riprendere in mano mercato interno e regole condivise di concorrenza e così via, per capirci. La strategia 2020 fuori dal gergo tecnico è quella che ha sostituito la strategia di Lisbona al 2010, che poi non è stata raggiunta anche per l'esplosione della crisi alla fine, e tanto per capirci la strategia di crescita 2020, quella nuova, dà come obiettivo, ne cito solo uno, quello di avere un tasso di partecipazione al mercato del lavoro, un tasso di occupati sul totale della popolazione 15-64 anni al 75%, noi in Italia attualmente siamo al 56%, tanto per avere idea di che cosa implica quella strategia di crescita. Però il professor Vaciago è stato chiaro, dice qui l'errore è che il creditore impugna dopo aver trasgredito alle regole e finanziato i trasgressori, in questo consistita la sua trasgressione, adesso fa pure la voce grossa perché non gli danno, non gli danno l'elemosina. Tobias Piller, ci si ritrova in questa descrizione, cioè di una Germania che è come la Cina, elemento squilibratore da una parte, oltre che forte per il suo export, ma squilibratore, e dall'altra il paese per tenere in piedi le cui banche che hanno comprato i titoli dei paesi che più erano fuori linea, come la Grecia ieri, l'Irlanda oggi, erano più in bolla, eccetera, eccetera, oggi ci obbliga a mettere a rischio l'euro, anche se lei è la virtuosa. Che cosa in questa descrizione non le torna, Piller? Vorrei aggiungere una cosa sugli Stati Uniti. Così, io penso che c'è veramente un pericolo se da un lato c'è questo deficit nei conti dello Stato e dall'altro lato ancora la banca centrale pensa di dover comprare ancora titoli di Stato e oltre a questi tassi di interessi così quasi a zero. Vuol dire sono tanto impaziente di rivedere subito la ripresa quando quasi è impossibile averla subito, perché se tutti gli americani medi sono indebitati, devono veramente aspettare forse anche qualche anno per riprendersi da tutti questi debiti, e non basta semplicemente una politica monetaria così a bassi interessi e a altri soldi per far riprendere seriamente l'America. In Europa trovo necessario fare una distinzione, e come l'ha anche fatto sempre il mio giornale, così la Germania non deve aiutare banchieri della Deutsche Bank o di altri se hanno investito troppo in finanziamenti alla Grecia e in altri paesi. Così, se hanno sbagliato, noi non dobbiamo salvare la Deutsche Bank tramite una politica europea. Se Deutsche Bank ha sbagliato e dopo rischia di fallire perché i loro debitori non ripagano, è un'altra storia se poi bisogna stabilizzare il sistema delle banche, ma comunque anche cambiando poi il vertice della banca. Questo per uno. Poi non mi quadra anche questo discorso che il creditore lì mette in mano il bastone e poi gli altri sono lì a soffrire. Il punto è quello che la Germania qualche piccola riformetta l'ha fatto e qualche piccolo sacrificio sul lato dei aumenti di stipendi ce l'ha fatto. Mettete lì una cosa che per 4 anni, nei ultimi 10, non sono state aumentate le pensioni, solo per metterci un esempio. E in Italia forse sarebbe la rivoluzione già rinunciare a un aumento delle pensioni. In questo senso tanti altri in Europa, in primo caso anche l'Italia, pensano che ci sia un rimedio a costo basso, un rimedio confortevole che ci possono portare gli altri, e intanto l'Italia va avanti come è andato avanti per 40 anni con tante cose che sono da riformare e non funzionano. E poi così mettetelo a posto voi tedeschi, questa è una cosa che funziona sempre meglio, perché il mondo gira più velocemente e i nodi vengono pettinati molto più velocemente, e io temo che se l'Italia non cambia e in aggiunta adesso a un sistema anche politicamente che non sa più decidere niente, avremo tra un po' anche la crisi del debito italiano. Questo credo che sia uno dei temi di cui ci dobbiamo occupare, perché l'aumento di rischiosità del contesto internazionale porta ad aumentare le probabilità del rischio che gli spread sui titoli italiani salgano. Vi faccio notare che quando Tobias Piller, con il suo amabile linguaggio molto trattenuto, dice la Germania qualche piccola riformetta l'ha fatta, intende dire una duplice cosa: da una parte ironizzare sul fatto che insomma le riforme le ha fatte come, visto che poi la produttività, tra più produttività manifatturiera e minor costo del lavoro, sono 30 punti che ci ha inflitto di distanza dall'inizio degli anni 2000, 30 punti di competitività che l'Italia deve perdere, ha visto perdere. Dall'altra però, con questo suo piccolo, ci fa anche capire che il suo punto di vista è quello del suo giornale, per chi lo legge, la Frankfurt, infatti infatti considera questo popò di differenza di 30 punti inflitti all'Italia troppo poco, perché dice ogni giorno al governo tedesco: vabbè, ma bisognerebbe fare molto, ma molto di più. Che bello quando di fronte a tutto quello c'è qualcuno che dice: ma insomma, poca roba, eh? Pensateci, voi che pensate che solo Stato, più Stato sia la vera risposta ai vostri problemi. So che il professor Vaciago considera sempre che io esagero su questo, però minoritariamente io insisto, perché temo proprio che tra poco ci risiamo col più Stato e far saltare la spesa pubblica come grande panacea, illusione dei mali italiani. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, eravamo arrivati con il professor Vaciago prima e poi con Tobias Piller a toccare esplicitamente con la preoccupazione di Piller il punto anche dell'Italia su questo contesto internazionale animato da così forte tensioni sul dollaro e sui surplus commerciali e di parte corrente la bilancia dei pagamenti, e abbiamo con noi il professor Marco Fortis che in questi anni con la ricerca, la fondazione Edison, con molti quaderni di ricerca e volumi, secondo me è stato tra coloro che più ci hanno consentito di capire in tempo reale, cioè di trimestre in trimestre, come si comportava l'Italia, meglio del previsto a dire la verità, nella sua manifattura e nell'esportazione, quindi nel commercio mondiale, difendendo lì il più della crescita potenziale a breve del nostro paese, difendendolo malgrado un'atmosfera di forte tensione sulle ragioni monetarie, di scambio, di competitività internazionale, e ci ha aiutato a capire come per molti versi il calabrone continua a volare italiano, anche se naturalmente l'export manifatturiero, malgrado il suo miracolo, non è che ci può dare poi una crescita potenziale altissima, perché poi il resto dell'economia italiana, cioè il 70%, i servizi e la pubblica amministrazione, sono lontani dall'eccellenza che noi continuiamo a difendere tenacemente grazie all'impresa italiana organizzata in filiere che si adattano con grande velocità e con buone tecnologie, buoni prodotti al valore della domanda internazionale. Allora, al professor Marco Fortis chiedo in buona sostanza di far capire ai nostri ascoltatori due cose. Primo, siccome c'è una polemica molto forte sui paesi esportatori, la Cina e la Germania, questa polemica americana e quello che è sul tavolo del G20 di Seoul, in che maniera può toccare un paese che ha il suo punto di forza nell'essere la seconda potenza esportatrice e manifatturiera d'Europa, però avendo i tedeschi come concorrenti? E secondo, qual è la sua valutazione in questo scenario di tensioni in cui ripartono gli spread sui titoli del debito pubblico, in un quadro in cui anche l'Italia potrebbe essere un po' instabile? Che cosa può avvenire invece alla produzione italiana, alla manifattura italiana? Quali elementi aggiuntivi di criticità questo aspetto può portarci? Ecco i due punti che gli chiedo, salutandolo e ringraziandolo per essere qui con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi tutti. Sul primo punto, quello che posso dire è che certamente l'Italia in passato ha sperimentato, prima di altri paesi che oggi invocano dei riequilibri dei cambi, dei problemi di competitività dovuti essenzialmente alla simmetria delle valute. Noi, bisogna ricordarlo, abbiamo fatto competizione con la Cina per 5-6 anni con lo yuan svalutato, quando sembrava che solo l'Italia dovesse soffrire la concorrenza cinese, perché a quell'epoca avevamo il tessile, abbigliamento, le calzature, i mobili in grandi difficoltà, gli altri paesi sembravano non toccati. Siamo stati per 5-6 anni con lo yuan sottovalutato, che danneggiava il nostro export e facilitava la competizione della Cina, e nessuno ha mai detto nulla. Adesso l'Italia ormai è abbastanza vaccinata allo yuan debole e sono gli altri a lamentarsi, gli Stati Uniti, la Germania. Quindi la situazione è abbastanza paradossale, perché una volta l'Italia era accusata di protezionismo perché invocava la rivalutazione dello yuan, adesso lo chiedono tutti gli altri e noi siamo abbastanza defilati, nel senso che ormai il nostro export si è molto spostato sulla meccanica, e lo stesso tessile, abbigliamento, le calzature, i mobili sono diventati di più alta qualità, si sono collocati nelle fasce di maggiore valore aggiunto, quindi non è che siamo indifferenti al problema dello yuan debole, ma tuttavia lo siamo molto di meno come preoccupazione rispetto a qualche anno fa. Per quanto riguarda il secondo punto, credo che sia fondamentale relazionare la situazione dei debiti sovrani dei vari paesi a qualche parametro un po' più moderno che non il semplice prodotto interno lordo, perché è veramente un artificio contabile il fatto che si misurino i debiti pubblici in rapporto al PIL. in quanto il PIL è composto sostanzialmente di consumi, investimenti, spesa pubblica, quindi quando lo produciamo ed esportazioni, quando lo produciamo è già quasi tutto allocato. Nessun paese ha mai pagato il proprio debito pubblico con il PIL. La vera, diciamo, il vero asset di garanzia che un paese può contrapporre al debito pubblico è la propria ricchezza privata, che si colloca essenzialmente nelle famiglie, perché le imprese tradizionalmente hanno dei debiti finanziari per fare i loro investimenti. Allora, se guardiamo al rapporto debito-PIL nella prospettiva tradizionale, vediamo che l'Italia oggi è in una posizione abbastanza simile a quella della Grecia, quindi sembrerebbe un paese estremamente a rischio. L'Irlanda e la Spagna addirittura sono più virtuosi dell'Italia. Ma se il rapporto lo facciamo tra debito e ricchezza delle famiglie, la situazione diventa la seguente: l'Italia ha un rapporto del 70%, la Spagna del 96%, l'Irlanda del 136% e la Grecia addirittura del 228%. Questi sono dati proiettati sul 2011. Quindi io credo che certamente ci saranno tensioni nei prossimi giorni sui debiti sovrani, perché la situazione dell'Irlanda si sta facendo sempre più difficile e questo potrà impattare certamente anche sull'Italia, perché pochi ancora si rendono conto della differenza che c'è tra l'Italia e gli altri PIGS. La speculazione ci considera ancora sempre abbastanza a rischio, ma devo dire che il quadro italiano appare nettamente migliore di quello che indicherebbero gli indicatori tradizionali. Oh, professor Vasciago, torniamo un secondo sul punto dell'Europa, che al suo interno ha squilibri paragonabili a quelli tra America e Cina sul quadro mondiale, America e paesi emergenti sul quadro mondiale. In realtà anche nella casa europea, ha forse ancora più accentuatamente che su quella mondiale, regole comuni per bilanciare un pochino più di crescita interna tedesca, non in forma coattiva, perché i tedeschi dicono no grazie, come abbiamo visto, abbiamo fatto le riforme prima della crisi, abbiamo aumentato la produttività manifatturiera e tenuto basso il costo del lavoro, fatelo anche voi, questa è la risposta dei tedeschi, e forse fossimo tedeschi penso che ragioneremmo così anche noi. Però insomma, queste regole di una crescita più armonizzata europea, e con questi due gironi che sempre più si evidenziano, dei creditori e dei debitori, c'è il paradosso che ha detto lei, però le regole comuni non mi pare che ci siano. Questo nuovo girone di incandescenza dei debiti sovrani dei paesi dell'euroarea, secondo lei dà un supplemento di consapevolezza rispetto ai tre mesi che abbiamo visto tra febbraio e maggio, in cui siamo arrivati a pochi minuti dall'esplosione della situazione della Grecia che esplodeva senza interventi comuni? Ci sarà un sovrappiù di regole comuni più operative, oppure bisogna disperare, bisogna a quel punto immaginare che i tedeschi continuano sempre di più a dare il passo vero dell'Europa? Lei che pensa? Ma penso che oramai si è rotto lo specchio. Lo specchio è quello che per 10 anni ha consentito a tutti i paesi della zona euro, noi compresi, virtuosi o meno, di indebitarsi a tassi tedeschi. Questo, se guardiamo gli spreads sul decennale tedesco di tutti gli altri paesi europei, li troviamo irrisori fino a un anno fa, cioè non c'era nessun ruolo dei mercati nel valutare il rischio di credito paese dei vari paesi. Attenzione che quando va la pagella al governo, poi va la pagella anche alle imprese di quel paese, certo, perché è un rischio sovrano, e quindi gli spreads, che erano irrisori per quanto virtuosi o viziosi fossero i vari paesi, questi spread ormai si sono rotti e secondo me non torneremo più. Anche le minacce tedesche, minacce fra virgolette, d'ora in poi i privati, cioè le banche che hanno sbagliato, dovranno pagare, nel senso che ci saranno quelli che si chiamano tagli di capelli, che però possono arrivare a tagliare anche la testa. Haircut può significare un 30% o più di perdite di valore del debito. Queste cose oramai... Facciamo che il taglio di capelli su un debito è, diciamo, cioè, perderci sugli interessi. Tutti... Invece tagliare la testa significa, si inizia a perdere del capitale che gli hai prestato. Significa dimezzare il valore. Cioè, se guardo un titolo greco o irlandese oggi sul mercato, la BCE lo compra a valore nominale temporaneamente per finanziare lo squilibrio, ma chiaramente nessuno di noi pagherebbe il valore nominale per un titolo greco, certo, o irlandese. Allora, secondo me Oramai, naturalmente quello che diceva il professor Fortis è riflesso negli spread. Se guardo cosa paga l'Italia, non paga come la Grecia o l'Irlanda, cioè i mercati già sanno che l'Italia è un miglior debitore, nonostante i grandi numeri, perché appunto ha ricchezza privata e così via, non ci stanno facendo pagare il debito pubblico PIL che ci spetta, perché appunto già ragionano, e gli spread nostri sono passati da 25 a 160 punti base nell'anno trascorso, mentre quelli greci e irlandesi, che erano 25 o giù di lì 2 anni fa, adesso stanno a numerosi punti interi. Questo secondo me non torna più indietro, e quindi dobbiamo sapere che d'ora in poi la pagella, con buona approssimazione, la danno i mercati, e quindi il paese vizioso non ha bisogno del bastone della Merkel che impugna il governo tedesco, se lo becca sul mercato la penalizzazione. Lei pensa che l'instabilità in cui ci siamo oramai, qui c'è chi parla di minuti, chi parla di pochi giorni eccetera eccetera, i mercati come la valutano, quella italiana politica? No, quella italiana non si sono accorti che non siamo più con un governo. Già non l'avevamo prima per i mercati. Attenzione, chi si illude che i nostri politici abbiano un ruolo sui mercati sarà deluso. Qualunque governo rifacciamo, oramai il nostro spread riflette una pagella che cambia lentamente. Ah, però questo è interessante. Lei non teme molto un effetto instabilità sullo spread italiano, quindi? Ma presenti il casino che c'è in giro per il mondo. No, ma questo, il nostro, cioè, è poca che, esatto, cosa. Nostro è poca cosa. Ecco. Pensare che l'Italia destabilizza il mondo, no, in questo momento. Io dicevo, mi sembra quanto si può incorporare nello spread italiano dei titoli l'instabilità politica. Lei dice il mercato, un conto è se il mercato non si è ancora accorto che non c'è più un governo, un altro conto ancora è dire non faceva troppo contro il governo che c'era, quindi non ci sarà nessun effetto sui titoli del debito pubblico italiano, perché tanto uno va l'altro. Altro conto ancora è dire, col casino che c'è nel mondo, dell'Italia poi nessuno fa troppo conto. E lei che pensa? Mi spiace deludere il presidente Fini, lo spread Italia-Germania non ha riflesso i suoi discorsi, ma il caos in Irlanda e in Grecia. Ecco, ha ben altre origini. Benissimo, ora abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale. Sentiamo anche qualche telefonata da parte voi ascoltatori. Cominciamo con Mirko. Mirko da Milano, prego Mirko. Sì, buongiorno. Le volevo solo dire, cioè, adesso volevo dirla un po' più grossa, cioè l'Europa di fatto è stata commissariata, e con il Fondo Sovrano Permanente, salva Stati, quando è intervenuto il Fondo Monetario Internazionale, di fatto cioè, deve giudicare anche le politiche interne a quei paesi che ha aiutato. Lei dice è stata commissariata, ma guardi che se non decidevamo all'ultimo secondo prima dell'apertura dei mercati e dell'insolvenza greca certificata, le regole decise all'ultimo secondo, il fondo europeo, quello adesso diretto da Regling, il tedesco che lavorava alla Commissione Europea eccetera, e il rischio era che saltasse l'euro, quindi lei dice commissariata, ma ci abbiamo messo 3 mesi a non capire che dovevamo darci regole comuni, forse non sono efficaci e i mercati tendono a non crederci troppo, però quando lei dice commissariata da chi? Dal Fondo Monetario Internazionale, cioè di fatto il fondo è stato realizzato anche con l'aiuto del Fondo Monetario, e ricordiamo che nel Fondo Monetario Internazionale la percentuale prevalente è quella americana. Sì. Giusto? Sì, sì, certo. Però, ripeto, il Fondo Monetario, che è lo strumento che di fronte ai paesi che vanno in default, le grandi falò che si accendono, è quello che ha gli strumenti, le task force, gli uomini che ordinariamente nei diversi desk seguono i diversi paesi e le diverse situazioni, il Fondo Monetario ha appunto questa capacità di intervento rapido. Poi che sia efficace è un conto, che esprima il Washington Consensus, come mi pare di capire la sua sia un'implicita o esplicita critica, è un altro paio di mani. Che però era lo strumento di emergenza. L'Europa a lungo si è detta contraria a darsi un proprio strumento di emergenza analogo al Fondo Monetario. I tedeschi su questo hanno un po' cambiato idea, a dire la verità, e tant'è vero che io su questo farei rispondere subito Tobias Piller, perché in Germania, dopo che si è puntato molto i piedi rispetto a meccanismi automatici, perché c'è un vincolo costituzionale in Germania per cui nessun programma intervento europeo può passare se ha bisogno di un finanziamento finanziamento in maniera automatica se non c'è il voto del Parlamento che esprime la sovranità e la rappresentanza diretta degli elettori tedeschi. Quelli sono messi in Costituzione e la Corte di Karlsruhe l'ha ricordato a tutti quando si è approvato il nuovo trattato. In Germania la sovranità resta nazionale. Detto questo, però, ultimamente in Germania è sembrato che su questo ci sia stato un cambio di tono, tanto è vero che la cancelliera Merkel ha detto che bisogna cambiarlo il trattato, dando alla struttura del fondo europeo, quello deciso ai tempi del salvataggio greco, un carattere semipermanente, tipo un fondo monetario europeo, al quale prima la Germania sembrava contraria. Come mai? Che cosa davvero rivela della politica tedesca questo cambio di tono rispetto a strumenti ordinari di sicurezza per il sistema dei paesi membri? Perché la Germania sembra cambiare idea così? Ma tutto è collegato alla credibilità dell'euro, non c'è un governo dell'Eurolandia e così tutti i paesi membri devono essere credibilmente anche virtuosi, anche nella loro politica del deficit pubblico, anche nella loro politica della competitività. Questo poi non ha funzionato perché abbiamo scritto tutto nel trattato di Maastricht, ma è stato disatteso anche dalla Germania quando non era più conveniente. Allora il problema era, alla fine è arrivato questa cosa che sembrava non possibile 10 anni fa, ma anche gli italiani hanno detto non arriveremo a questo. Certamente abbiamo avuto la crisi del debito greco e avremo forse altre crisi del debito, ma questo fondo di aiuto così ad hoc non può essere un fondo che finanzia chiunque abbia comportamenti poco virtuosi, così a volontà. In quel senso bisogna avere delle regole, così che non fa gola un fondo così per avere altri finanziamenti a, tra virgolette, peccatori, altrimenti è un altro incentivo a peccare. Allora i tedeschi vorrebbero, se questo fondo rimane anche all'interno, vorrebbero anche regole più stringenti, anche automatici, perché altrimenti al tavolo di Bruxelles si mettono sempre d'accordo. Certo, professor Fortis, per un paese come l'Italia che cresce per il suo export manifatturiero, però sul totale della bilancia dei pagamenti poi il segno più fortemente positivo dell'export manifatturiero viene riequilibrato poi dall'importazione di energia, dal trasporto, eccetera eccetera, quindi noi non siamo in una posizione che ci veda interessati, per così dire, frontalmente alla polemica che gli Stati Uniti portano nei confronti di paesi come la Germania e come la Cina soprattutto, che sono in forte surplus della parte corrente della bilancia dei pagamenti. Per un paese come il nostro, appunto, se si mettesse un tetto, come propongono gli americani, al sia positivo che negativo, ma in questo caso loro hanno in mente soprattutto quelli che sono col segno più di bilancio dei pagamenti, quindi la Germania che sta più del 6%, la Cina che sta più del 3%, il Giappone, noi ne avremmo maggiori vantaggi o svantaggi per il nostro modello di crescita, professore? Io credo che innanzitutto bisogna considerare che al netto dell'energia, ma soprattutto del pagamento degli interessi sul debito pubblico, sì, la nostra bilancia dei pagamenti sarebbe molto buona, anzi è molto buona, perché abbiamo un surplus manifatturiero che in Europa è secondo solo a quello della Germania. Quindi la vera forza dell'Italia non sta nei suoi elementi apparentemente convenzionali di contabilità, no? Se uno guarda il debito PIL sembriamo un paese alla deriva, se uno guarda la bilancia dei pagamenti la vediamo in peggioramento e si pensa che c'è una perdita di competitività. Invece la competitività sicuramente sembrerebbe messa a dura prova, perché la produttività non cresce, perché il tasso di cambio effettivo sembra andare in una direzione che ci sfavorisce, ma poi se andiamo a guardare i risultati, La vera forza, il vero indicatore che misura la competitività dell'Italia sono i risultati sui mercati, non gli indicatori che dovrebbero stabilire se siamo bravi o cattivi. I risultati sui mercati ci dicono che l'Italia ha un surplus manifatturiero. Ci sono solo 5 paesi nel G20 che hanno un surplus manifatturiero sono la Germania, il Giappone, la Cina, l'Italia e la Corea del Sud. Tutti gli altri sono in deficit, quindi anche la competitività andrebbe vista finalmente con modalità nuove, così come andava visto con modalità nuove con largo anticipo, purtroppo non siamo stati in grado di farlo, il problema della stabilità finanziaria dei paesi, che non era minacciata dai debiti pubblici, ma è stata distrutta dai debiti privati. Ok, allora professor Fortis, è chiaro nel dire a nuovi criteri e siamo meno deboli di quanto ci immaginiamo. Se guardiamo la bilancia dei pagamenti nella componente economia reale manifatturiero, noi siamo tra i 5 paesi del G20 che sono i virtuosi. Bene, vedremo cosa capiterà al governo italiano e l'instabilità dei titoli italiani, ma se hanno ragione Fortis e se ha ragione Vaciago, non dovrebbero succedere grandi cose, anche se forse un po' di stabilità male non ci farebbe un governo serio e deciso. Grazie al professor Vaciago, a Tobias Piller, a Marco Fortis, grazie a tutti coloro che, grazie ai quali stiamo andando in onda, ma io sto chiudendo in ritardo, quindi passo la linea al giornale radio, vi do appuntamento a domani.